You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta all'appuntamento con Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che ha come ospite ogni puntata un italiano di origine straniera. Questa sera, visto che domani si voterà per l'Europa, abbiamo un ospite di origini tedesche, di origini un europeo che insomma ci dirà il punto di vista sull'Italia vista da chi è nato altrove. Abbiamo l'onore di avere questa sera uno scrittore tedesco che vive da molti anni a Trieste, Veitenichen, buonasera. Buonasera Valentina, buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Grazie per essere con noi, come sempre questo è un invito a cena, quindi come prima domanda d'obbligo, che cosa ci ha portato questa sera, quale piatto? Ma adesso ci troviamo in piena stagione del pesce azzurro, qui al Golfo di Trieste. Nel Golfo di Trieste siamo in piena stagione, come si chiamano in dialetto dei sardoni, vuol dire gli alici o anche i scombri, li vediamo ogni tanto anche con le creste che creano alla superficie del mare ed adesso è proprio la stagione. Io propongo una pasta con gli alici, ma ho pensato non prendo le alici fresche pescate perché non tutti gli ascoltatori li troveranno, quelle dell'entroterra, lo facciamo con quelle sott'olio. Mm-hmm. E prendiamo gli spaghetti certamente, ci serve il timo fresco che dobbiamo veramente con le mani, con le dita liberare dei bastoni e tutto, tanto timo fresco. Nel frattempo prendiamo anche mandorle spelate e tagliate a fettine e li mettiamo in una padella per tostarle leggermente e poi li mettiamo via. Nel frattempo bolle l'acqua, nella padella sciogliamo le alici abbondante e lasciamo anche per persona tre filetti o anche cinque interi, li stiamo sciogliendo con l'aglio e quando diventa cremoso, spaghetti saranno cotti, allora buttiamo i spaghetti nella padella, misceliamo benissimo, li serviamo sul piatto per ognuno e sopra metteremo il timo fresco anche in abbondanza e le mandorle tostate. Un piatto da preparare, preparazione semplicissimo e gustosissimo e davvero mi ha fatto venire l'acquolina in bocca, ma un piatto che per i profumi, anche per il pesce, molto poco tedesco, insomma, molto mediterraneo, no? L'unico pesce azzurro che conoscevo dalla Germania era sicuramente la ringa e non ero un grande fan come veniva preparata. Sembra avere dimestichezza lei con i fornelli. Ma certo, da piccolo stavo sempre ai fornelli, avevo anche pensato quando ero giovane di magari cambiare mestiere e dedicarmi a questa professione, finché finalmente avevo capito che di questa parte del banco io sto molto meglio che dietro in un ristorante o in bar. Sto godendo di più, e poi è un lavoro massacrante. Io ho tutta la stima per bravi chef, ma anche per i bravi camerieri. È una professione spesso sottovalutata. Tra l'altro, insomma, lei ha in casa una chef. Ma sì, anche la mia coautrice, la Amy Scabar, che è la chef più famosa di Trieste, si può dire, perché è una clientela assolutamente internazionale, il miglior ristorante pesce. Poi abbiamo scritto un libro insieme, Trieste, la città dei venti, una storia culturale, ma anche culinaria, perché in questa città europea si può narrare la storia tramite i piatti che hanno lasciato tutte queste oltre 90 etnie di immigrati che una volta hanno fondato la città, che dopo la Amiscaba diventava la mia moglie, non era prevedibile. E come lei ha detto, insomma, attraverso i piatti si può raccontare l'identità delle persone. Ci sono degli accenni, tra l'altro, anche nelle avventure del commissario Proteo Laurenti, il più famoso personaggio, insomma, il protagonista della serie dei suoi romanzi. L'ultimo è Il suo peggior nemico, pubblicato per le edizioni EO. È un personaggio che lei si porta dietro nel tempo, no? Non è un po' stancante scrivere sempre dello stesso personaggio, oppure è frutto di nuovi spunti ogni volta? Diciamo, gli argomenti e anche la melodia di libro a libro cambia secondo la materia che ho scelto. Io comincio a scrivere solamente una materia ben documentata, cerco sempre di rispettare che il romanzo è uno specchio di un'area geografica e di un'epoca. Diciamo, l'area geografica è assolutamente l'Europa. I tempi che guardo è la biografia dell'Europa, diciamo dal 1866 o 70, anche quando pensiamo alla fondazione della Germania. L'Italia e la Germania hanno tante cose in comune, ma soprattutto Proteo Laurenti, sì, l'ho inventato una volta, è il protagonista, è nativo di Salerno, ha fatto tutti i spostamenti di un poliziotto finché si è inchiodato a Trieste, che da qui magari i genitori non sapevano neanche dove si trovasse. E Proteo Laurenti, ho anche cercato di ucciderlo nel quinto romanzo per liberarmene. Ma questo delinquente è sopravvissuto e mi sta seguendo, anche se ero una volta il suo creatore, adesso sono diventato il suo schiavo, ma nonostante sto cercando sempre di scappare, e scrivo anche altre cose, certamente, come questa storia culturale, o anche adesso sto lavorando su un grande progetto cinematografico, molto internazionale, molto europea, in cui sono coinvolti 5 paesi. Ah, interessante. Tra l'altro, il ciclo delle avventure del commissario Laurenti è diventato anche una serie per il primo canale televisivo tedesco. Sentiamo proprio uno stralcio. Das kann ich tun, um Ihnen den größten Schmerz zuzufügen. Es war nicht Antonio Pubian, der meinen Mann getötet hat. Veitenichen, allora, grande successo in Germania, quindi anche. Ma non solamente in Germania, meno male, sono tradotto ormai in oltre 10 lingue. E poi importante è che l'ultimo libro, Il suo peggior nemico, è anche finalista nel premio Bancarella. Vuol dire anche riconoscimenti in Italia, con altri premi, con la Ceccagabuli o Franco Fedeli, eccetera. Ma per me è importante di essere presente, molto presente anche nel paese in cui sono a casa, e a casa sono assolutamente in Italia. Quindi si sente a casa in Italia, ma lei scrive in tedesco? Diciamo l'ultima versione, sì, e di mezzo c'è un misto tra l'italiano, tra il tedesco, gli appunti faccio quasi tutti in italiano e dopo devo disciplinarmi, perché purtroppo non sono nato come Nabokov con la possibilità di imparare le lingue molto presto. Poi l'italiano non ho mai imparato a scuola, ma diciamo quello che incontri ogni giorno, e ho tanto rispetto dalla lingua letteraria italiana, che si distingue tanto di quella parlata quotidianamente. quindi scrive nella sua lingua madre, poi vengono tradotti questi romanzi, come lei ha detto, in molti paesi diversi, in Italia, in Germania, ma poi anche in olandese, sloveno, norvegese, francese, greco, insomma un successo internazionale. Fra poco le chiederemo perché, come mai è approdato in Italia e si è fermato a Trieste. Una piccola pausa. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Le acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete, non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò. Torniamo a Indovina chi viene a cena sulle note musicali di De André. Siamo questa sera con lo scrittore tedesco residente a Trieste da molti anni, Veit Eineken. Come mai la scelta di questo brano musicale? Quando io le ho chiesto se ci suggeriva qualcosa, lei ha scelto questo brano, collegato forse alla ricetta di cui abbiamo parlato nella prima parte. Assolutamente, perché le acciughe sono una materia prima e poi fanno parte anche di questa stagione. Tra l'altro conosco anche molto bene Genova, dove ero anche quando ero giovane. Ho anche visto, ho anche sentito De André molto molto presto. Quindi è un brano che le piace molto. Sempre. Senta, com'è arrivato in Italia? Quale via della vita l'ha portata nel nostro paese? Ma diciamo, il mio primo contatto con l'Italia era sicuramente dove sono cresciuto, nell'estremo sud-ovest della Germania, vicino due confini, vicino la Francia e la Svizzera. Diciamo, come figlio di confine si cresce e nasce diversamente delle persone dell'entroterra, perché la diversità è più elevata. Non c'è il pericolo di una monotonia, c'è l'interscambio, ci sono contrasti e tutto quanto. Ma in questo piccolo paese dove sono cresciuto c'erano i primi Gastarbeiter, come venivano chiamati, no? Io parliamo dalla fine degli anni 50, inizio 60, e i loro figli si sono integrati immediatamente. Lì certamente ho imparato da piccolo già le prime parole, poi come era sempre all'estero le bestemmie, no? Italiani, sì. Ma nonostante l'Italia, anche il Mediterraneo, il mondo del Mediterraneo per me era sempre importante. Poi fino di confine ho anche fatto una strada zigzag anche professionalmente. Mi sono laureato in economia, ero nella direzione generale, nella mia prima vita professionale, nella direzione generale della Mercedes, ma ho abbastanza presto capito che quello non è il mio mondo. Ho cambiato, sono prima diventato libraio e dopo editore in vari paesi. Ho fatto 13 traslochi in 4 paesi europei per motivi di lavoro. In Francia. Quindi un'anima raminga. L'Italia. Vuol dire, io sono curioso, voglio capire il mondo in cui viviamo. Il mondo in cui viviamo non è un mondo nazionale. Abbiamo troppi interscambi anche già tramite la storia. Se guardiamo anche l'Italia non omogenea, no? Perché abbiamo viviamo in un paese da cui Costituzione tutela a parte dell'italiano 12 lingue, dal albanese fino allo sloveno, croato, tedesco, francese, occidental, catalano, eccetera, eccetera. E questo per me è fondamentale, perché la diversità è ricchezza. Ho letto una sua intervista in cui lei dice: chi nasce vicino a un confine subisce una differente formazione dell'anima. Non è un caso quindi che lei sia approdato a Trieste, che è una città di confine, culturale anche, oltre che fisico, per eccellenza? Certamente venivo chiesto migliaia di volte: ma perché Trieste? Sì, come figlio di confine sono finito nella città più europea di tutto, di tutte le altre in Europa, perché è la città che dispone di più confini contrasti, contraddizioni, ma anche ponti tra essi. Vuol dire che è già nata tramite l'immigrazione di oltre 90 etnie che hanno lasciato le loro tracce nella città, sia nel dialetto come nelle pentole. E l'altro è anche difficile di trovare una famiglia triestina puramente che appartiene puramente a una sola nazione, c'è sempre tutta l'Europa dentro, fino il finlandese, l'albanese, il turco, il francese, sono tutti dentro. Poi c'è un importante polo universitario che porta anche degli accademici di vari paesi. Assolutamente, è molto molto importante questo fattore della formazione qui, degli istituti di ricerca dove abbiamo anche tutto il mondo. Ma perché Trieste? Perché è questa miscela tra anche il contrasto, è la città portuale più settentrionale del Mediterraneo, si incontrano anche due mondi, quello del nord e quello del sud, qui ma anche est-ovest. Trieste è stata durante la spaccatura dell'Europa o delle ideologie ancora, anche la città al sud della Cortina di Ferro. Ci sono tanti contrasti, ma oggi è una città normale, contemporanea, di 220.000 abitanti, che ha i suoi beni, che vuol dire un'altissima qualità della vita, il mare davanti casa, il carso dietro, è sempre vicino, indifferente dove si va, se si va a Budapest o a Milano o a Monaco di Baviera o Vienna o anche a Rimini. Siamo in mezzo dell'Europa, non dell'Europa di una volta che era orientata solamente tra la Francia e la Germania. L'Europa di oggi, infatti, per la quale tra l'altro si vota domani, un'Europa in cui ci sono sempre più nazionalismi e situazioni di tensione, entra anche questa Europa con tutte le sue contraddizioni nei suoi libri? Assolutamente, è molto importante perché io sono un grande difensore dell'Europa, nonostante che vedo anche il svantaggio, diciamo anche l'abuso del potere, ma ci ha regalato tanto, ci ha dato una cornice giudiziaria a cui tutti si possono rivolgere, ci ha buttato giù i confini, abbiamo una moneta unica, non dobbiamo più cambiare le monete. E quando sento parlare dell'euro cattivo, tutto sia colpa dell'euro, mi si gira lo stomaco, perché cosa abbiamo a che fare? Con una moneta, innocente, che dobbiamo in caso mai accusare la gestione, questo sì. E siamo anche stati troppo assenti, perché la democrazia significa anche partecipare, non solamente votare e lamentarsi. E così consiglio anche e desidero che tutti quanti vanno a votare domani. È importante di partecipare, se no la posizione è troppo comoda di lamentarsi, di dare la colpa sempre e unicamente agli altri. Sentiamo brevemente un passo di una parodia che si trova facilmente in rete di Angela Merkel. Also, weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber der Ratspräsident, wenn man dem Präsidenten des Europäischen Parlaments folgt, sieht erstmal weiblich aus. Insomma, abbiamo sentito questa parodia e quelli che parlano tedesco fra i nostri ascoltatori avranno capito che chiaramente non era la voce di Angela Merkel, era la voce di una imitatrice che scherzava sul rapporto fra Angela Merkel e Berlusconi. Lasciando da parte però la politica, i leader in particolare, sicuramente in Italia Angela Merkel, la Germania vengono visti con un po' di stizza di recente, come perché questa grande Germania, questa fortissima Germania, sembra aver imposto un po' la sua visione all'Europa, il suo anche un certo rigore che in qualche caso è parso un po' strangolare i paesi del sud Europa. Lei, dal suo doppio punto di vista, che opinione si è fatta di questa visione anche che gli italiani possono avere della Germania? Non sono sicuro che ho ancora un doppio punto di vista, perché in Germania vado solamente quando mi tocca per presentazioni o qualcosa. Sono più orientato qui, pago anche le mie tasse esclusivamente in Italia, non ho altre residenze e tutto quanto. Diciamo, la storia Merkel-Berlusconi mi fa spesso ridere, perché mi ricorda di un amore deluso andato male. Poi dobbiamo assolutamente finire con i pregiudizi. E certamente io sono molto critico in confronto della Germania e della gestione dell'Europa, diciamo, tramite la Germania. Non possiamo negare che il popolo più numeroso, quello che parla la lingua tedesca, ma anche un'economia molto importante. Non sottovaluterei per niente l'economia italiana, che per me è molto produttiva, è molto, molto interessante. C'è sempre anche una forza enorme di tirarsi fuori dalle crisi. Ma quello che una volta si faceva con le guerre, oggi certamente viene fatto con l'economia, tramite le grandi imprese che poi si comprano le loro partecipazioni, ma questo si chiama mercato. Io vorrei tanto che l'aspetto sociale, il mercato sociale, fosse più rispettato in questo mercato, perché diciamo che tutto il welfare che abbiamo, delle infrastrutture funzionanti, fino alla sanità, fino alla formazione e tutto quanto, veniva una volta costruito tramite la partecipazione di tutti. E oggi vedo che c'è un pericolo di un'esclusione molto molto grave, che mi sta veramente, non solamente irritando, mi sta preoccupando. Ma anche lì devo dire, partecipate alle elezioni, date il vostro contributo. E tra l'altro dobbiamo anche ammettere, come scriveva un famoso giornalista italiano qualche settimana fa sull'Espresso, dobbiamo anche ammettere che la responsabilità che ha la Germania è enorme, e unire questa Europa di più non si può fare senza la Germania, e la Germania non fa finta di non avere questa responsabilità, ma credo che non sia da rimproverare che sono tanti e in certi modi anche bravi. Vedo assolutamente una differenza. Non, la Germania non funziona sempre bene, c'è anche corruzione lì, un livello molto alto anche tramite i consorzi internazionali, politici, evasione anche lì. Adesso hanno condannato Hoeneß, il capo della squadra bavarese famosa, ma comunque nessuno ha solamente il bianco o il nero, e questo dobbiamo ricordarci. La storia dell'Italia, la cronaca dell'Italia, entra anche spesso nei suoi libri, no? Questa ottava avventura del commissario Laurenti, che è alle prese con questa morte di un imprenditore ex senatore della Repubblica saltato in aria su un Cessna, insomma, ricorda o comunque prende spunto dalla cronaca, no? Da tanti fatti che leggiamo anche sui giornali. Devo quanto si ispira lei? Sto anticipando, questo imprenditore è un alto attesino, senatore alto attesino della Volkspartei una volta, che saltava con mani pulite. Era uno che dava tanto fuoco ai nazionalismi, all'abuso del potere politico anche, e nello stesso momento ne approfittava. Ma in questo libro c'è anche una rapina di un trasporto di valori, trasporto d'oro sulla autostrada A4, quando l'ho scritto, anche programmato, anche pensato, studiato molto bene come si dovesse fare, sono stato copiato 3 volte. L'ultima era in ottobre dell'anno scorso, nella provincia di Foggia, e uno a uno nello stesso metodo come io l'avevo descritto un anno prima. Inquietante. Ogni tanto mi fa anche paura. Grazie, grazie a lei per essere stato con noi questa sera. Grazie per la sua ricetta e per la sua simpatia. Buona serata a Veit Eneken. Grazie, buonasera e buone elezioni domani. Grazie anche a tutti voi per essere stati all'ascolto. Vi rinnovo l'appuntamento con Indovina chi viene a cena sabato prossimo alle 23. Trovate le storie e le ricette del programma sulla pagina di Indovina chi viene a cena sul sito di Radio 24. Mi trovate anche su Twitter @Valfurla. Buona serata a tutti, a sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.